Con l'ultimo attentato alla metropolitana di Mosca, che ha riportato il terrore nel cuore della capitale russa, uccidendo almeno 40 persone e ferendone più di 100, torna alla ribalta la guerriglia indipendentista cecena. Combattenti per la libertà, secondo alcuni, semplicemente terroristi per Vladimir Putin e i suoi generali, dal 1994 i separatisti ceceni lottano per strappare a Mosca la piccola regione del Caucaso. L'attentato alla metropolitana è solo l'ultimo di una lunga serie di attacchi messi in atto da kamikaze pronti a morire per l'indipendenza. Dopo l'11 settembre, il terrorismo ceceno ha infatti assunto un nuovo volto, quello disperato del martirio. Con il sequestro del teatro Dubrovka a Mosca, nell'ottobre 2002, per mano di un gruppo di kamikaze, la lotta indipendentista sposa lo stile della guerra santa islamica. Si comincia a parlare di legami tra i ribelli ceceni e Al-Qaeda. Secondo alcuni rapporti, volontari islamici avrebbero viaggiato per anni verso il Caucaso per unirsi alla causa cecena, dopo essersi addestrati nei campi afghani e pakistani. Tra questi il leggendario Khattab, veterano della guerra afghana contro i sovietici. Nel febbraio 2003 il Dipartimento di Stato americano dichiara ufficialmente terroristi tre gruppi appartenenti alla guerriglia cecena, tra cui il leggendario battaglione di sabotaggio dei martiri ceceni di Shamil Basayev. I ribelli ceceni sono accusati di intrattenere rapporti con varie organizzazioni terroristiche mondiali e di appoggiare i secessionisti abkhazi nella vicina Georgia. Annidati nelle inaccessibili gole del Panchisi, continuano a sfidare le forze armate agli ordini di Putin, nel cuore di Mosca come alla periferia dell'ex impero sovietico. Lucia Sgueglia, lettera 22, Amisnet.